diritto d'autore. Il creatore non solo è una limitazione nei confronti delle espressioni della nuova musica, cioè la musica d'avanguardia, la musica è dinamica, e quindi sappiamo tutti che siccome la musica è dinamica, noi abbiamo bisogno di modificarla giorno dopo giorno, e oggi purtroppo non abbiamo nemmeno la distinzione tra i generi come rock, hip hop, metal, blues, jazz. Ormai è tutto molto molto intrinseco in sé, cioè mi spiego meglio, i generi sono talmente, la differenza tra i generi è talmente diventata sottile che è molto difficile capire le differenze. Infatti le influenze sono ormai presenti in tutti i generi, è facilissimo sentire una chitarra elettrica distorta in un pezzo hip hop o sentire un cantato hip hop sotto una chitarra elettrica, come ad esempio sappiamo benissimo Chavez Milin Biscuit cantato hip hop sotto musica metal. Adesso mi sovviene dire, perché dobbiamo limitare questi nuovi artisti che stanno cercando di trovare nuove frontiere alla musica e stanno cercando di ingaggiare nuove idee nei confronti della musica mondiale? Perché fermarli? Per colpa del diritto d'autore, che è qualcosa che per non è sicuramente delle case discografiche, ma che è bensì della persona che ha creato un pezzo, perché le case discografiche senza elementi musicali non sono nessuno. E su questo non mi divulgo, altrimenti poi mi denunciano per associazione a delinquere. Viva Napster! The Tiger and Scusa, ma con la canzone di prima dove eravamo rimasti? Con la canzone di prima. Senti, in mezzo a tutto quel casino, non mi dire niente, ho dimenticato dove eravamo rimasti. Ma come hai dimenticato dove eravamo rimasti? Tu che vuoi da me? Mannaggia. Poi piace aggiungere le varie cose, fare casino, così. Mi sono dimenticato dove siamo rimasti. Vabbè, a questo punto ricominciamo da capo. Cioè, non possiamo fare altro. Ricominciamo da capo, che ti devo dire?